21esima puntata di Coccoli al Silicio. Questa sera sono puntualissimo rispetto al solito, che inizio sempre con un quarto d'ora di ritardo. Infatti c'ho pure il fiatone e no, non dovuto che sono corso qua, che stavo facendo dell'attività fisica e poi mi sono interrotto per venire qui a fare il mio dovere ai microfoni di Radio Wombat. Wow! Questa sera vi avevo già preannunciato in realtà il programma la volta scorsa e lo sarò fedelissimo a quello che avevo detto. Insomma, si è detto l'altra volta, proprio sono arrivato sul pezzo, nel senso che avevo parlato di questo attacco, questo bug all'interno di alcuni software che si utilizzano insieme al GPG, al PGP, al G, insomma come lo volete chiamare voi, insomma al Pretty Good Privacy, che poi è diventato diciamo uno standard, e quindi alcuni software che realizzano lo standard Open GPG. E questo standard vi permette sostanzialmente di gestire in una maniera più o meno comoda le vostre email cifrate da dei client di posta, quindi sostanzialmente semplificano un pochino la gestione delle cifrature di cifratura delle email, che di per sé è già una cosa abbastanza arzigogolata, e avere delle cose che te la semplificano è utile. Non fosse altro che ogni volta che si introduce degli elementi, diciamo, che tendono a semplificare per l'utente, in realtà non si va a semplificare le cose, si vanno di solito a rendere per diversi gradi più complesse, cioè gli si aggiunge degli strati, e questi strati qualche volta causano dei problemi. Questo è il caso del bug che vi avevamo annunciato l'altra volta, legato ad alcune applicazioni, tra cui ad esempio il plugin di Thunderbird, che sarebbe l'equivalente di Firefox ma per gestire la posta. Ecco, questo plugin che si chiama Enigmail è uno di quelli che soffre di questo problemino. Il problemino poi alla fine si è rivelato essere sostanzialmente un problema sia in qualche modo della realizzazione di come è stato pensato il protocollo che sta alla base di questo diciamo del funzionamento della cifratura, ma soprattutto un problema dovuto all'interazione tra il web e il testo cifrato. Perché poi il problema si è rivelato essere essenzialmente questo, cioè tutto il problema è che la gente manda le mail come HTML. E in bella sostanza il problema nasce qui, nel senso che cosa fa il nostro cliente, come è definito nel sito che spiega questo attacco. Infatti hanno fatto un sito apposta, come si usa fare per le vulnerabilità quelle grosse, e si prende il nome della vulnerabilità e poi gli si dà si compra un dominio, così almeno la cosa assume un risalto maggiore sulle cose importanti. Effettivamente è importante farlo, e sostanzialmente il sito che vi spiega questa vulnerabilità è ifail.de, poi vi metto comunque il link nel post sul blog wombat.noblogs.org, così non vi dovete ricordare, sforzare di seguire tutte le cose strambe che dico a memoria, che sono difficili. E comunque quello che si spiega nel sito è sostanzialmente che il problema nasce di per sé da una cavolata. Sostanzialmente l'idea era anche abbastanza semplice, però finora nessuno ci aveva ancora pensato. Infatti la settimana scorsa erano, diciamo, le testate webbose che si occupavano di queste cose erano un po' in fibrillazione, erano preoccupate perché non erano ancora stati resi noti e chiari l'entità e i meccanismi di questo bug e di come sfruttarlo. Ora li hanno resi noti, in realtà è abbastanza anche semplice da spiegare. Io sono abbastanza rasserenato, perché mi aspettavo di dover spiegare qualcosa di molto difficile e di aver detto ormai che lo facevo e quindi poi di doverlo fare. In realtà, per fortuna, il bug è semplice da spiegare, anche via radio secondo me ci riesco, almeno ci provo. Sostanzialmente il problema nasce dal fatto che i client appunto non devono gestire soltanto una semplice comunicazione via posta, anche se a voi vi sembra quello, però siccome voi maledetti siete abituati ad avere tipo le immagini, tutte queste cose qua, di arrivare alle email che hanno tutte le immagini colorate, allora bisogna gestire anche questo livello. Però, come fanno questi plugin a gestirlo? Attualmente, utilizzano una roba che è uno standard e prevede sostanzialmente che se una mail è composta da diverse parti, di tipi diversi, cioè tipo un'immagine del codice HTML, degli altri pezzi, ma si vuole visualizzare tutto come fosse un'unica pagina, ecco, allora la mail è composta da tutti questi pezzi attraverso una righina che gli dice sostanzialmente: la tua mail ha content type, perché così si identifica il tipo della vostra mail, di tipo multipart mixed. Cosa significa questo? Significa che la mia mail sarà sostanzialmente divisa in tutti questi pezzettini. Ora immaginiamo che il primo pezzettino sia un'immagine, di cui io però specifico, perché così si può fare nell'HTML, la sorgente. La sorgente di questa immagine può essere ad esempio un sito, quindi immaginiamo il sito. Qua fanno un esempio con il sito dell'attacco, così ho occasione di ripetervelo. Immaginiamo che il sorgente di questa immagine sia http://, che è quello che trovate scritto di solito nel vostro browser quando navigate, c'è scritto http o https se ci fate caso, e se lo usate solo dallo sminchiaphone, cioè dallo smartphone, probabilmente non ve ne accorgete, ma se lo usate da un computer è più probabile. E insomma, c'è scritto http://, e poi il sito ifail.de, e poi il nostro, diciamo, tag, così è definito, la nostra sorgente dell'immagine si interrompe. Nel senso che di solito il tag, diciamo, io come la sintassi che si utilizza è io spiego la destinazione scrivendo src, che sta per source, uguale, e poi metto delle virgolette. Ora, se le virgolette io non le chiudo, quello che capisce il computer, il client che state usando, è che quell'immagine, il percorso, diciamo, che va a quell'immagine continua. Ora, immaginiamo che io qui finisca il primo pezzettino del mio messaggio. Inizia poi il secondo pezzettino. Il secondo pezzettino è il testo cifrato, che rimane cifrato per ora. Il terzo pezzettino dell'immagine è sostanzialmente composto soltanto da virgolette e poi chiuso, diciamo, il marcatore che segna la fine del tag. Quindi se io guardo quell'immagine, è un'immagine che richiede di recuperare dall'indirizzo che il vostro client andrà a recuperare dall'indirizzo http://ifail.de, poi c'è un altro slash e poi c'è il vostro testo cifrato e poi lì finisce. Ora, fino a qua tutto bene, il problema è che il client cosa fa di solito? Per vostra comodità, il testo ve lo decifra. E quindi cosa succede? Che voi andate sostanzialmente a recuperare un'immagine al sito che viene indicato, però il nome di quell'immagine, o almeno nell'URL, cioè in quello che viene scritto nell'indirizzo che andate a richiedere, c'è pure tutto il vostro testo in chiaro, perché il vostro client, nel momento in cui leggete la posta, lo interpreta, dice: devo andare a prendere l'immagine, come si chiamerà quell'immagine, qual è il percorso per arrivarci, e ifail.de/ tutto il vostro testo in chiaro, che a questo punto lui ha decifrato, perché da bravo client vi vuol far leggere la posta. E così cosa fate? Praticamente state dando al detentore di questo sito il vostro messaggio completamente in chiaro. Quindi se era un messaggio segretissimo, tipo con le ricette di cucina della nonna, adesso anche lui sa le ricette di cucina della vostra nonna. E questo è il problema che è sorto. Non è niente più di questo. Però è abbastanza, perché sostanzialmente incasina un po' tutto. Nel senso che cosa bisogna dire alla gente adesso di fare? Allora, cosa bisogna dire? Anzitutto, bisogna dirgli che se era comodo decifrare il messaggio in automatico, e non lo devono fare più. Nel senso che voi avete Thunderbird con Elink Mail e lo potete usare solo per mandarle le mail, ma non le potete, cioè non lo dovete leggere così. Sostanzialmente vi dovete prendere il vostro testo, prendere soltanto il pezzettino con la parte cifrata e poi decifrarlo con un altro programma che non sia il vostro client di mail, cioè che non sia un programma che sostanzialmente interpreta questi messaggi multipart. Comodissimo, cioè praticamente mi mandi la mail, io come faccio, io non è vero, non lo faccio perché è faticosissima questa cosa, però come andrebbe fatto, ti copi e incolli il testo da un'altra parte e poi te lo decifri a mano, magari usando un utility squisitamente a linea di comando, cioè come praticamente ti insegnavano a fare giustamente negli anni 90. E così. L'altra cosa che poi dovete fare è disabilitare assolutamente il rendering delle pagine HTML nelle mail, cioè voi non dovete aprire le mail in formato HTML, quindi se vi mandano le mail in formato HTML non le aprite. E allora che ve l'hanno mandata a fare, tanto non vedete le immagini? Non lo so, e non le dovete aprire. E poi quello che si può anche fare è, diciamo, sul lungo termine aspettare che esca una patch che risolva questo problema, cioè che i signori di Elink Mail magari hanno già rilasciato, non lo so, io non l'ho manco guardato, però insomma che risolva dal lato client questa cosa, cioè che si accorga di questo tipo di problema e non ci mettano una patch loro. E poi su quello molto molto lungo termine è sostanzialmente rivedere gli standard OpenPGP e i vari che si utilizzano per gestire i multipart messages, diciamo, però quelli che devono essere anche sicuri, e sostanzialmente bisogna rivedere questi standard perché non permettano di fare questa cosa. E questa è una roba lunga, perché ormai questi standard sono fatti, un sacco di gente ha già realizzato i client seguendo questa roba, e se questo standard deve essere rivisto, diciamo, a livello appunto di standard, e poi vengono rilasciate le versioni dei programmi che interpretano questo nuovo standard, che quindi si capisce già da come l'ho spiegato, che è una roba con una certa burocrazia e quindi un pochino lunga. E questa è un po' la spiegazione di quello che ha, diciamo, che era uscito la settimana scorsa e che aveva destato un certo scalpore nel mondo della sicurezza informatica, che però cioè, nel senso, vive di queste cose, cioè di scalpori, cioè ogni cosa sembra tutti reazioni spaventate, poi alla fine uno dice vabbè, però ma chi se ne frega, cioè magari mai voi manco lo utilizzate tutte queste cose che vi interessa, però se le utilizzate sappiatelo e state accorti. Comunque in generale se le utilizzate probabilmente ve ne siete già accorti, perché siete persone che seguono queste cose, altrimenti tenetele lì nella vostra cultura generale e parlatene, non lo so, al bar con gli amici, la sera, quando non avete più argomenti di conversazione, ve la tirate raccontando che, capito, sapete anche queste cose qui. Ora vi lascio a un pochino di musica, intanto prepariamo la seconda notizia, che sarà anche questa abbastanza tecnicosa, e poi scemiamo su delle semplici consigli di ascolto, consigli di letture e cose simili. Stiamo ascoltando, mi ero dimenticato di dirvelo, un album di un'artista americana degli anni 70, si chiama Bette Davis. L'album è l'omonimo Bette Davis. Ho scelto una cosa facile così e semplicissimo da dire, da ricordare. E la prossima notiziola è sempre come da programma, nel senso anche la scorsa settimana vi avevo annunciato che avremmo spiegato anche le vulnerabilità che affliggono diciamo l'app desktop, quindi non credo quella che usate sul cellulare, ma quella che usate eventualmente sul computer se usate Signal. E ora, perché si è parlato anche di Signal? Perché sostanzialmente nel annunciare l'attacco precedente, cioè questo e-fail, quello che si consigliava era dire: vabbè, in questi giorni che non si capisce ancora niente, aspettando che pubblichiamo i dettagli e vediamo come muoversi, eventualmente non usate, per le vostre comunicazioni sicure, sicurissime, quelle intime, intime, intimissime, non utilizzate i programmi tipo Thunderbird o questi qua che utilizzano lo standard, che realizzano lo standard OpenBGP, ma bensì utilizzate delle cose tipo Signal. Non fosse altro che proprio nella stessa settimana sono usciti un sacco di bug per Signal. In particolare, quello che vi volevo spiegare oggi è lo spieghiamo perché ci permette anche di sragionare, di introdurvi a un termine che magari è utile sapere, e anche se non è utile, io ve lo spiego uguale perché ci tengo che voi siete tutte persone molto acculturate e formate in materia. E sostanzialmente cosa è accaduto? Che due ricercatori che si stavano utilizzando Signal per comunicare, ed erano anche dei ricercatori che si occupano di cose hackerose, si sono passate un cosiddetto XSS payload, cioè l'XSS sono dei tipi di attacchi che permettono di eseguire del codice sostanzialmente internettoso, HTMLoso, JavaScriptoso, all'interno di un'applicazione che non diciamo di una piattaforma che non valida correttamente l'input, cioè è una piattaforma che prende da un qualche form, tendenzialmente voi dialogate nel web in questo modo, quindi compilate delle cose, poi le inviate a qualcun altro. Ecco, se quello che gli inviate è malizioso e l'applicazione ci sta a quel tipo di input malevolo, esso esegue delle cose che però tendenzialmente le piattaforme e le applicazioni non dovrebbero, filtrando l'input, far passare. Cioè è compito dell'applicazione che utilizzate, del sito che visitate, insomma queste robe qua, quello di filtrare adeguatamente l'input perché uno non ci possa mettere questo codicillo. Quello che si sono accorti questi sviluppatori è sostanzialmente che invece, facendo il cut and paste, cioè sharando i link con l'apposito diciamo, tastino che permette di sharare i link di Signal, quello che accadeva era che sull'applicazione desktop di Signal questo codice veniva eseguito, che è una cosa che non dovrebbe succedere. Ecco. Non dovrebbe succedere, e però succede. E di conseguenza si sono accorti che c'era un problemino in come il programma gestiva appunto questa funzionalità di condividere link con le altre persone. Hanno fatto per questo un apposito video che spiegava l'attacco. È un video interessante dove si vede come sharando dei link maliziosetti si possa ad esempio non eseguire del codice direttamente sulla macchina, come si era detto all'inizio, ma è possibile comunque leggere dati dalla macchina. Ad esempio, il primo che leggono, che è quello più significativo, che fa capire che c'è un problema, è che utilizzando, cioè costruendo in una maniera maliziosetta il link che voi volete condividere con diciamo, con il vostro compagno o compagna di chat su Signal in quel momento, è possibile ad esempio leggere, che ne so, il contenuto di etc/passvd di una macchina Linux, che è un contenuto di un file che oddio, c'è di peggio, per carità, nella vita, però è comunque una roba che uno tendenzialmente vorrebbe tenere per sé, cioè che comunque significa che se posso leggere ETC PassVD posso leggere tendenzialmente tutto quello che l'utente che voi state usando per diciamo per utilizzare Signal, cioè tutto quello che lui può leggere, anche il possibile attaccante malevolo nel caso in cui voi facciate click, esso può leggere. E di conseguenza non è una cosa tanto bella. E questo tipo di attacchi, appunto, sono una roba abbastanza classica, si chiamano appunto cross-site scripting, potete anche cercarveli se siete curiosi. L'altra volta vi avevo mandato, vi avevo messo anche un link che avevo fatto come consiglio per gli aspiranti a hackers, un'applicazione finta, cioè diciamo vulnerabile, sviluppata apposta per provare le vostre abilità di hackers. Ecco, se avete provato a fare quel giochino che vi avevo detto, avrete senz'altro visto che una delle prime cose che vi chiedeva di fare è trova dei cross-site scripting all'interno degli shop finto che vi avevo consigliato come piattaforma di test. Magari vi rimetto il link anche questa volta con due cosine in più su questi cross-site scripting, così se voi mi seguite anche da un punto di vista cioè tecnico, ogni volta imparate una cosina in più che vi fa diventare sempre più smanettoni e vi infogno come è giusto che sia. Questa, diciamo, parte su Signal io la pianterei qua, che mi sembra che ho sragionato già abbastanza. Ho tenuto fede appunto a tutto quello che avevo detto la settimana scorsa, cioè avevo fatto vedere due cose, avevo annunciato due cose, le ho fatte, cioè sto cambiando, non sono più quello che vi dice sempre che vi faccio, poi la prossima volta ve ne parlo e poi invece parlo di tutt'altro. Questa volta sono stato bravo e quindi mi merito di lasciarvi un altro po' di musichina. Parliamo ora di Facebook. Ci tocca, ma tanto non ne parlo io che mi frega. Sostanzialmente quello che vi volevo consigliare era di ascoltare una puntata della trasmissione Partner di Coccoli al Silicio, che però va in onda su Radio Onda Rossa a Roma, però la potete comunque ascoltare in streaming, quindi non è che proprio vi sto dicendo una cavolata. Ecco, questa trasmissione si intitola Dita nella Presa, ne abbiamo già ascoltata diverse volte. Ecco, loro hanno fatto una bella trasmissione dal titolo I limiti della comunicazione su Facebook. Vi leggo anche le tre righe che la descrivono, perché io non l'ho ascoltata e cioè vi sto dando un pacco sostanzialmente, no, non è vero, mi è stata fortemente consigliata da una DJ della radio, da DJ Bloody Mary, che lei l'ha ascoltata tutto il pomeriggio e mi ha confermato che è roba tosta e quindi sicuramente ve la dovete sentire per forza, soprattutto se siete tra coloro che pensano che Facebook vi dia delle fantastiche opportunità di comunicazione, soprattutto per propagandare le vostre idea politica e che attraverso Facebook giungeremo felicemente al sol dell'avvenire. La puntata, vi cito appunto dal sito di Radio Onda Rossa, la puntata è dedicata all'analisi della comunicazione su Facebook. Non per parlare di temi pure interessanti come privacy, ma non si dice privacy, si dice intimità, controllo, profilazione, ma per valutare le possibilità che Facebook non offre a chi volesse utilizzarlo per fare una comunicazione politica. Il non è scritto tra parentesi, nel senso che è appunto un valutare quelle cose che si dicono. Un valutare in qualche modo quell'idea diffusa che siccome su Facebook ci sta la gente, tu quando stai su Facebook parli alla gente e loro spendono ben 1 ora e 34 minuti e 41 secondi, musica compresa però, per dettagliarvi come non sia così. Io non l'ho ascoltata, però io sono già d'accordo, cioè nel senso io anche senza ascoltarlo sono d'accordo. E quindi me l'ascolto comunque, però anche senza, diciamo, averla ascoltata mi sento di consigliarvela in ogni caso, come un must assoluto, sul quale poi, interrogherò nelle prossime volte che parlo. Cioè, in realtà non avete modo di interagire con me, quindi le mie saranno delle domande, retoriche, parlerò di argomenti, dando per scontato che comunque voi abbiate sentito questo 1 ora, 34 minuti e 40 secondi, 41 secondi musica compresa. Quindi se non li ascoltate poi non capite niente di cosa dicono le prossime puntate. Su questo tripudio nel finale del pezzo, con questa voce bellissima, roca e insieme molto, molto soffice, ma anche molto violenta di Betty Davis. Ecco, vi vado a concludere la puntata dopo il consiglio per l'ascolto. Ah, mi ero anche dimenticato di dirvi appunto laddove il sito da cui potete prendere questa cosa che è ondarossa.info e poi cercate le dita nella presa. Comunque forse è superfluo anche ricordarvelo e comunque metterò il link poi sul post sul podcast, cioè ad arricchire il podcast metto sempre questi quattro link. Non cerco neanche più l'immaginina, ormai sono diventato veramente essenziale nel mio modo di comunicare, ma d'altra parte, come ci insegna appunto il bug sui client di posta che utilizzano OpenPGP, la semplicità è un dono, più si va a complicare la faccenda, peggio è, e quindi anche io rimango super parco. Parco ed essenziale, ecco, così. E il libro di cui vi volevo parlare, ve ne parlo essenzialmente perché è stato presentato la settimana scorsa al Festival di Lettura Sociale in Polveriera. In particolare il venerdì sera si presentava appunto questo libro che in realtà è uscito nel 2017, ma noi ci siamo arrivati un anno dopo. No, non è vero, è che il festival è solo una volta l'anno, se capita che esce nella stagione sbagliata ne devi parlare l'anno dopo per forza. È un libro di Carola Frediani, si intitola Guerre di Rete. È abbastanza interessante, più che altro se volete sentirvi la presentazione, probabilmente la trovate sul sito di Radio Wombat nei podcast di quella 4 giorni di spettacoli, libri, presentazioni, eccetera, eccetera. Quella sera era presente anche collettivo autistici inventati nella persona unica, sostanzialmente, che parlava e partecipava al dibattito, e quindi potete sentire anche delle voci non solo della signorina o insomma di Carola Frediani. E di conseguenza, insomma, oltre a leggere il libro, che è pure una lettura interessante, vi potete anche ascoltare tutta la presentazione, il dibattito relativo e via a seguire, cioè farvi sostanzialmente una cultura per cui poi io di queste cose di trasmissione posso anche non parlare più, perché tanto ne avete già sentito parlare a sufficienza e io posso starmene sostanzialmente zitto. Che a quest'ora, essendo che sono le 9:32, ho già fatto mezz'ora, secondo me va anche bene, che si chiude tutto qui. E quindi con il consiglio per la lettura ci avete ora ad ascoltare la trasmissione da 1 ora e mezza, leggervi il libro qua, su 184 pagine, e per una settimana siamo a posto così. Poi se avanza tempo ci avete anche il giochino, quello della settimana scorsa da completare, che sicuramente non l'avete finito in una settimana, e quindi ci si può sentire tranquillamente lunedì prossimo, o se non mi riesce di fare la trasmissione perché effettivamente lunedì prossimo non so se sono qui e quindi posso già preannunciare che forse salto, ma avete da lavorare almeno per 2 settimane. Se poi invece riesco a fare la trasmissione uguale, meglio, così vi do dei nuovi input su cui lavorare per le settimane a venire. Vi saluto quindi a tutte e a tutti e vi lascio ancora un pochino di Bette Davis e poi la solita nostra bobina e le repliche della notte. Che essendo casuali, magari mi ribeccate in replica con la trasmissione che ho appena fatto, perché io la carico subito e quindi magari ripasso anche tra 2 ore. Forte, no? Yeah, bye.